Santiago sì, la portante. Tonino, siccome arriva quasi 9, a me allora non gli fa proprio capito. Sì, da me la portante. Santiago sì. Ma la portante la metto quando parlo io? Sì, positivo, positivo. Non la mette quando parli tu, la può mettere anche quando parliamo noi, solo che quando parliamo noi non esiste, capito? Noi riusciamo a accorgercene quando parli tu, capito? Che anche se passi di giudizio sopra, perché fa appena appena, se tu fischiettino leggero leggero, capito? Con noi non te ne accorgi perché non si vede con noi. Quando parlate voi non lo sento di cosa, di roba strana, capito? Perché Massimiliano crepa anche a cosa, come radio ammazza sia già Gianni, capito? Quindi che non me ne accorgo quando mette la portante a voi. Arrasso io per diventare, dai, diciamo bello lo stesso. Hai visto comunque lui con cioè adesso prende la posizione mia e tua per Torino. Con quasi 300 watt in meno io arrivo più forte, non devo sapere tu di cosa, e siamo noi, voi state, quanto saremo un chilometro neanche. Positivo, ma basta che ti sposti anche di poco, Massimiliano, a volte basta che ti sposti di poco e così, capito? Comunque, diciamo che la portante è più vicina da Gianni, il portantista è più vicino da Gianni. 9.30 è qua. Ti arrivassi qui a ottava, figurati un po', e qua è ottava, ma non c'è problema, avanti Gianni, ma lui ci ascolti lì? Sì, ti ascolto, Cuppa vi ascolto, ve la fa diventare Cuppa la radio. Vabbè, l'importante è che non diventi Cuppa lui. Non ci fa diventare la radio Cuppa, te lo immagini che... Perché arriva 9.30 da te la portante, così hai detto Gianni. Tu ce l'hai vicino a te, arriva 9.30 e anche se c'è la portante tu ascolti a noi. E allora meglio che si ritiri, ritirati di lì che fai meglio, fai più bella figura. Se io la metto la casa per la frega, se la passiamo non c'è problema là, almeno ci pulisce un po' il QRM. Positivo, giusto, tanto io quando è festa, giorno che è così, che lo posso fare, l'attacco sempre, e lo può. Poi di settimana cerco di non disturbare a nessuno, però giorni così che non posso disturbare altro nessuno, l'attacco e non me ne frega un crignolo. Non c'è problema, l'importante è partecipare, come si dice quello là. Avanti, Turi. Ci sono sempre i galleggianti in circolazione, la pizza, ma vabbè, non voglio rientrare, allora si diverte così a mettere portante, va? Meglio, la corrente già la paga lui, non gliela paghiamo noi. Buonasera. Dalla città di Ferro. Ciao Sandro, buonasera, ben entrato, dai, un secondo solo, sa che devo chiedere un'informazione a Torino. Torino c'ho un collega che lavora con me lì di Usi, si chiama Cocco di cognome. Niente ti dice. Cocco di cognome? E il nome anche? Gigi. Gigi Cocco. Non ce l'ho in mente, Massimiliano. Sì, mica fa l'autista lì, con i baffi, c'ha il suocero, c'ha la figlia. Non sono io però, Gigi Cocco, Luigi. Non mi viene in mente. Grazie, è basso. No. C'ha un'altezza di 1,65 m, una cosa del genere, magrolino. C'ha 53 anni, una cosa del genere, là. C'ha un'Opel Astra blu e una 200, una 205, una 305 forse. Tony, sicuramente quelli che ci avevano movimento terra, scavatori e via dicendo, sicuramente è quel coccolino. No, non so con chi lavorava prima, Tony, come Papa, Luigi Cocco, Luigi. Non mi viene in mente Massimiliano. E vabbè, allora, dopo quelli di Usine, vicino alla chiesa, abita lì con Paraggi. Ok, dai, facciamo entrare a Sandro lì dal paese del Carraggio, allora ti sa. Sì. Sperando che situazione un po'. Sono sconvinto e non ti ascolta né Tonino e né Gianni Doppio Ru. Ne sono convinto perché la portante da Gianni Doppio Ru è 9:30. A me mi arriva il segnale di sì e non lo so, guarda, te lo confermo subito. Gianni, hai ascoltato Sandro col portantista? Non riesco a capirlo bene, ma un po' passa, dai. Un po' passa, ma non riesco a capirlo bene. Che cosa lì? Non so cosa. È aumentato, adesso è così il passo. Ma io ho già capito anche chi è oggi. Io ho già capito chi è, però andiamo bene lo stesso. Va bene, dai, va bene. Ho scappato la portante, qua è 5 di cosa, di segnale. Però Sandro è passato lo stesso. E io già ho capito chi è, però andiamo bene lo stesso, là. Vuol dire lasciamo divertire così. Sandro! Ehi, ahia! Ciao, Tori! Dorai! Ascolta perfettamente bene, anche se qualcosa sto mettendo la portante. Sei passato tranquillamente bene. Ho copiato tutto al 100%, vai già! Picca, ma qua lo un po'. Neutralizza, perché forte segnale, quindi un po' mi distorce le parole, quindi non me lo fa capire. Però Sandro è in mezzo, non è che non si senta per niente, si sente ma un po' lo distorce, capito? Ciao Sandro, buonasera, ben sentito, vai, avanti. Ok, va bene, dai. Di più non posso tirare, non posso tirare perché ho l'antenna un po' zoppicante e quindi sto costretto ad andare così, va bene, lasciamo divertire il signorino della portante, evidentemente non sa che cosa fare, va bene, Gigino, a te il mic. Positivo, no, questo passaggio, Sandro, se la messa non esisteva, non c'era più, dai, adesso è aumentato di brutto pure, allora sia a livello di tutti gli altri e non c'è portata che regga qua, dai, a questi livelli, capito, sa, anda buono, avanti Massimiliano. Chiama, io ho detto l'odio, là, non c'è problema. Comunque l'importante è partecipare, come dice quello. Cosa ci vuoi fare, sa? Purtroppo così, dai. Vuol dire che oggi partite a quest'ora, non ce l'è. Ehi, vabbè, dai. Finché si tratta di queste, chiamiamolo scherzi, chiamiamolo perdita di tempo, vanno anche bene, capito? Intanto arrivato a questo punto non sta danneggiando nessuno e va più che bene, va bene. Torino Usini, senz'altro conoscerà Sandro detto Brazzitto. Sandro detto Brazzitto? E il cognome Sandri? Il cognome non lo ricordo adesso, guarda che ha avuto un incidente, gli manca metà del braccio destro, mi sembra, del braccio sinistro, anni addietro, un bel po' di anni addietro, lavorava con Merella. Ma non abitavo lì però. Non so se sia sposato ad Usini, lui mi sembra che sia di qualche altro paesino. No. Ok, mutilato proprio un braccio, non ce ne sono, una gamba sì, però mutilato così, ma un braccio non ce n'è. E ok, dai, va bene, vabbè. Cacciatore, tutto lì, tutto lì. Vabbè, comunque lasciamo stare, dai. Di più non farai. Cioè, finché non sistemo questo problema in antenna. Non ho niente da fare. Va bene, non più Roma. Eia, io ne conoscevo un apportatore, scopri sotto a nome, non so se te lo ricordi. Apportatore? Quello che faceva il custode al mattatuio. Tu il mattatuio aperto l'ho conosciuto là. Mattatuio aperto? Sì, ma di quanti anni stai parlando già? Un po' di anni. Sarà presso il mattatuio, l'hanno chiuso 25 anni fa. C'era il custode, quello lì era un buon barone, aveva perso in mare, facendo saltare in piscina. Ah sì, ho capito, perché se non sbaglio era, mi sembra, lì nei pressi dove adesso c'è tipo Madau, però appena più su, dove ci c'è il deposito del comune. Esatto, abitava lì nella casa del custode, lui era il custode, non è mancato. Ho capito. Va bene, ok, dai. Allora Gigi. Positivo, vabbè, l'ho conosciuto io a Mattatuio, c'era Luigi, adesso mi sfugge il cognome, che anche quello era lì, faceva parte di quello, lavorava per quel Mattatuio. Però Gianni, Sandro, c'era quello che andava in bicicletta e portava il giornale, cosa, con un braccio, gli mancava una mano, un mezzo braccio, ti ricordi, sa, quello che andava in bicicletta. Era che vedeva anche i giornali, tipo anziano che era sempre col sigaro in bocca. Lui quello, visto che si chiamava, cioè io mi ricordo c'era anche questo che portava i giornali, era in bicicletta, c'aveva gli mancava una mano, mi pare, non tutto il braccio, un pezzo ce l'aveva, mi pare, del braccio, se non mi ricordo. Aveva un braccio, gli mancava. Te le cose con l'anziano, era molto già da fare, che andava in bicicletta e portava i giornali. C'era quello che andava al bando, quello piccolino con 126. Tantino. Ne ho conosciuto un bel personaggio a produttore. Tantino, Suggia. Ma mi pare che c'era il gommista, no? non è lui. Ho sbagliato questo, quello che c'era dietro. Vicino di fuoco, quasi dalla parte di Maddau, da quella parte di dietro lì. Quello non era quel Costantino lì, quello Costantinarito, quello piccolo. Sì, ma adesso non lo. Costantinarito, quello piccolino, che c'era in una via qua là in via Dipendenza. Piccolino, diciamo, come statura, però non gli manca un braccio. No, gli manca un braccio. E lui ha detto che dava il bando con la 126, è vero che dava il bando questo Costantinarito. E ha avuto pure una 127, mi pare, anni indietro. Mi pare, non sono sicuro. E quello l'ha aperto un coso di gommista, se non sbaglio, vero già? Non ce l'ho presente se faceva anche i gommisti. Io di gommisti ne ho conosciuto solo due a produttore. Lopez, e dove lavora tuo cognato. Vuoi dirmi un cognato quello lì? Pippia, dove c'è la Pippia prima tuo cognato. È società col figlio, capito? L'hanno rilevata il figlio di Pippia e lui e Marco, capito? Sì, lo so. Bene, ma tutte le gomme, certo che mi fanno. Sono appena rumore perché è un po' dura la pasta, ma a me mi servono che mi facciano un chilometro, dicevo già io la macchina come la uso. Oh, Bianco, per me secondo. Facile. Cappa, una seconda. Ciao Sandro, Marco è mio cognato. sarà 15 giorni, 20 giorni fa, lì abbiamo messo le scarpe, diciamo, tutte e quattro scarpe all'Opel. E diciamo che già mi è trattato bene, diciamo, già lo conosco da tempo. Tutto lì. Comunque Gigino stava dicendo bene di Costantinarito, che c'aveva un magazzino che faceva il gommista. Allora io lì non lo conosco, dico la verità, quello non l'ho conosciuto, non lo sapevo. Io che facevo il gommista anche, ma un periodo, ho conosciuto quello dietro il bar Barbagia, il figlio di quello bar Barbagia che qualche volta mi aveva aggiustato le gomme del cane. Sì, anche quello lì, insomma, già ce ne sono stati, diciamo, qui a proporre, se dai. Va bene. No, lì da Marco, insomma, ho messo le gomme anche alla punta, diciamo, già mi ha trattato bene. Io ho matto la moto tutte e due volte, la macchina mia per due o tre volte. Ok, dai. Va bene. Ok, riprendi Gigi. Positivo, Sandro, rispondi che ti stanno chiamando. Senti, da poco fa che ti chiama. Lo sentiamo lui e non lo senti tu. Rispondi, non so se è tua figlia, tua moglie, ma rispondi però, Sandro. Addirittura col micro palmare sentite anche il sottofondo. Che ti chiama, zio, lo sento, sentiamo lui che ti sta chiamando. No, siccome io sono in cuffia, aspetta un attimino. Anna, stai chiamando? Ah, si conferma, mi stavo chiamando. Tu c'avevi le cuffie e non lo sentivi, ma noi sentivamo, tu ti chiamavi e tu lo sentivi, ecco il motivo, perché c'avevi le cuffie e non la sentivi. No, sono in cuffie, oh Gigi. Non ti senti, senti che non senti tu, ma ti stai mangiando. Hai visto? Hai visto? Ma siccome sono qua non ascolta, no? Giusto per sentirmi, diciamo, la modulazione, magari anche per quello, in cuffie, ecco, parla ascolta. Magari anche per quello lì. Ma sto usando il mic suo normale, mi Gigi. Positivo, sì Sandro, ma se tu c'hai le cuffie e ti chiamano, non senti, ascolti a noi ma non senti che gli altri che ti chiamano all'esterno dentro casa, hai capito? Ma noi ascoltavamo quando ti chiamava, capito? Ehi, si conferma, no, per vedere, cioè per dirti quanto diciamo è sensibile sto mic. Positivo. Evitate che non parli male, perché noi se no noi ascoltiamo dopo, diglielo a tua moglie. Hai capito, non parlare male e non dire dei conti che ci abbiamo in casa, se no ci scopriamo. Bravo, Torino. Abbiamo lasciato Torino un po' in bianco. Positivo, forse si è colto. C'è un po' di banda, si sentono in banda laterale, stavo scherzando comunque, stavo scherzando. Siccome ho sentito due o tre volte che ti chiamavo e tu non rispondevi mai e continuavi a parlare, non gli davi retta, ho detto ma rispondo, invece perché c'avevi le cuffie. No, è perché sono le cuffie, capito? Le cuffie con il parlascolto è per quello, capito? Per quanto, ecco, adesso eliminiamo le cuffie, dai. Ok, va bene. Vediamo, poi ha fatto bianco, giusto? Dicevo, c'è lo Smith qua, e sale, scende, va, 5, scende, vale, sale, deve essere bande laterali. Io ero messo 5 normale, ho provato, lo sai che ti senti così? E che ha fatto te l'operato? Galassi. Un eco? Io. No, quello sì, quello un po' del prendere i colpi. Sì, io quando ce l'avevo sentivo i motorini quando passavano, maledizione, si sentivano anche i motorini. È come il brutto, è identico gemello. non so. Io no, colpi no, perché splatter non ne prendo, non ne prendo a meno che sia appunto sotto casa. E forse è armonica che prende magari più che altro. È positivo, e beh anch'io con questo mi se io mi sposto di canale e parlatevi, voi vi sento chiaro che Alessandro non se ne parla, Massimiliano lo sempre sia nello stesso canale mio, cioè, Massimiliano passa da un'altra parte, e lo sento chiaro come che sia nello stesso canale mio a Massimiliano, e così sono io per lui, però su questi apparati, sugli altri non mi dà fastidio. Allora, Sandro, com'è andato questo primo maggio? Ma, niente di particolare, nulla, niente di particolare, una giornata normale come tutte le altre, e tu a me stamattina sembrava che mi stesse scendendo male, invece adesso lo giro con un bel sole caldo. Si è rimesso a posto. E intanto oramai la giornata è fregata, perché magari se fosse stata una bella giornata saremmo andati in giro a farci una gita, una cosa, ma così con brutto tempo cosa fai? Ti ghiaccio o non puoi andare? Massimiliano. Bello, Mauri, bello. Come va? È positivo, dai. Stiamo dando uno sguardo qui a Facebook, mi sono arrivati un paio di messaggi, un paio di messaggini, dai, li abbiamo letti e via. Ui, mamma mia, su Facebook. Farete piano piano, già. Io ti dico la verità, sono un bel po' meno gento. Mi stanno guardando la mail che ce l'avevo piena, se non la cancelli ti cancella tutto, capito? No, su Facebook è pochissima cosa, ma proprio quasi zero. Guardato più niente, no. Mi avevo intenzione prima, adesso vediamo lo sguardo a vedere, invece no, non l'ho fatto neanche. Io c'entro 10 minuti al giorno, rispondo, faccio qualche link e basta, no? Non sto più, prima ci attavo, facevo male, sono una giura. Ascolta, qua mi ho memorizzato, come si dice, mi ho messo a posto questa eco che stamattina stava girando male, vedi un po' come va adesso, non ne parlo più da cose, da Roberto Rapido a farmela aggiustare, vedi un po' se gira bene, cambi... La coda del coso del camaleone. Me l'ho fatto io, capito? Mi sono messo le cuffie poco fa e me l'ho registrato perché stamattina girava malissimo. Allora ci ho toccato un paio di temerini e tutto a posto. E come mai se ne parla solo così? Ieri lo stavo usando e stava girando bene, stamattina l'ho acceso, mi dico, facevo un po' di passaggi con Gigi, si stava regolando una scatoletta e lo sentivo girare male, allora me l'ho aperto, mi ho messo le cuffie e me l'ho fatto così, là. Me l'ho fatto appena anche più veloce, cambi... Iguana, bar, la coda. Io va bene. Kappa, Kappa, Sandro, Radio Porto Torres, Kappa. Eia. Ok, dai, ok. Lascio raffreddare un attimino la presto, ecco, adesso stai cominciando ad ascoltare un pochettino, però non voglio diciamo tirare più di tanto fino a risolvere un po' un attimino il problema, dai. Un attimino che passo un attimino dopo 48. Va bene, no, beh, io non mi sembra, Sandro, che perché già inizia a andare, la radio non gira bene, ma tu dallo strumento cosa ti HC abbastanza buono. Con lo strumento cosa ti dà il stazionare? Cosa c'hai? No, non è questione di stazionare Gigi. Allora ti spiego qual è il problema. Siccome diciamo questo apparato qua ha una fa in protezione quando per dire c'è un'anomalia sul cavo, un viene saltato male, c'è un problema sull'antenna, insomma così via, se ne va in protezione. Allora, riguardo diciamo lo smitter, il pomello diciamo del power per aumentare diciamo i watt e così via, rimane diciamo non rimane normale, ma in effetti lo smitter se ne va tutto a fondo scala e quindi ti sta segnando diciamo come che avessi delle stazionari, come c'hai un'anomalia, dai. Capito. Ieri mi ha chiamato Costanzo, lui per quel fatto là. Predisposto, devi solo tagliare, se tu le avete, giustamente no, perché se tu quando lo compri glielo chiedi te lo fanno già, te lo mandano già, nuovo, mi compra nuovo, glielo chiedi e loro te lo fanno già, giusto Gianni? Gianni l'aveva preso, se l'ha fatto fare già da lì dalla casa quando l'ha comprato. Beh, ho capito. Ehi, vabbè, dai, vabbè, vabbè, ma era giusto così per avere l'omologato, per avere l'omologato GC, no, no, mica per altro, capito? E niente, lo uso così qualche volta, giusto per, giusto, diciamo, per farlo riscaldare, giusto per farlo riscaldare e basta, diciamo, non è che lo usi più di tanto, perché raccoglie tutto. So, raccoglie tutto, lo so, anche quello che ho io, è tutto, e lo so, certo che lo so, e purtroppo, però c'è un'altra cosa che lo sta facendo Roberto e diventa come una radio professionale, non raccoglie più niente. Lo sta facendo già questi lavori e gli mette, non so che cosa sia, comunque gli mette una cosa all'interno, quanto ne stia prendendo per fare questi lavori non lo so, dovevo sempre chiedere e dovevo mandarle anche questo per farlo, gli mette una, all'interno, non ti toglie nella recensione, non ti toglie nulla, però non prendi più sbratteri da nessuno, è più, diciamo, è più protetto come per altri motorini, queste cose così, no? Ti elimina tutte quelle cose lì, è una cosa che si mette all'interno, adesso io non so cosa sia che mette, e niente, non c'hai più problemi di sbratteri dagli altri, ecco, come una radio professionale in poche parole, quasi, quasi, però non prendi colpi, dai, voglio dire, è più selettiva, mi capito, raccoglie meno roba, mi... Gigi. Yes. Già, come sto facendo con il Magnum, sto provando il Magnum adesso, com'è la radio? Ma il segnale mi sembra sempre quello comunque. Ma perché lo abbassa attivato dall'apparato, Il segnale è buono, non è malvagio, capito? È buono sempre il segnale. La radio com'è, meglio dell'altro o peggio? L'altra era più prepotente poco fa, forse c'era qualcosa attaccata, la radio la sentivo più corposa, più prepotente leggermente, però è buona la radio, ottima. Anche adesso, no, se si sente sato la voglio sapere, guarda come devo parlare, su 2-3. Satura, adesso, ma c'è quella scarpetta presso? Ma sto usando solo le parti dell'apparato, sto regolando qui. Ma quanti fatti stai entrando nell'apparato? Io devo spegnere per un tempo. Ora. 20. Tipo con la scarpetta, ma stai scherzando? Lo fai saltare la scarpetta. Non è fare di questi sbagli, ma stai scherzando. Con la scarpetta non ci puoi entrare con 20 watt, no? Deve 2 watt puoi fare, massimo 4 watt, ma non esagerare, perché ci appicchi, il Magnum ci appicchi quell'apparato lì. Adesso poi ci appicchi forti, ci aspetto un attimino, ti abbasso, andiamo un pochettino, così mi appena 10 watt, così vanno bene. Ti fate dei baracchino con la scarpetta appresso? No. Allora, non ti ho capito prima, no? Io pensavo che ci avevi la scarpetta e più i 20 watt di baracchino. Adesso c'ho praticamente 4 watt, dai. E la scarpetta, come va? Ma tu sì, 4 watt e la scarpetta. Fai 10 watt senza la scarpetta, a vedere, una curiosità. Da me la scarpetta. Io aspetto, ora 1, 2, 3, così è 10 watt, guarda. La scarpetta, giusto? È più forte così che con la scarpetta. Ah, vero? Però com'è? Che strano. La radio è più forte la radio, devi impostarla bene quel Magnum, se no te lo crucimi quel legnaretto, lo devi impostare bene Gianni, lo devi impostare bene, capito? Deve dargli due fatti, tu ascoltami a me, tu ci riesci a farlo scendere a due fatti quel baracchino, quel magno, tu fallo scendere a due fatti e poi attacchi la scarpetta a cinque scatti, tu metti tu due fatti di portante bianca quel magno, mettila a due fatti, ascoltami, mettila a due fatti e poi attacchi la scarpetta cinque a quinta marcia e fai la prova. Sì, ma immagino, sai cosa, tu la metti a due fatti, poi come parli, a Sarigoi. Ma se tu già lo metti a 10, lo metti di più, ce ne sarà ancora di più. Tu pare che funziona così, che funziona con i due fatti, quello lì, fai tranquillo, con me. Se no io lo do per due fatti, questo è due fatti e mezzo, mi adesso. Tu fai così. E io adesso sono così. Uscendo sto. Ma cosa c'hai, due fatti già? Adesso è proprio quasi a, cioè a zero, proprio il power. Tu lo stai guardando, sta dando due fatti così. Più o nemmeno due fatti mi sta dando. C'è quella scarpella che sta a cinque scatti. Perciò? Sì. Dammi due fatti e mezzo di ingresso. E ti spara 200 fatti, ti spara. Io mi do due fatti e mezzo di ingresso. E mi dà 200 fatti. La portante muta l'ago della Svizzera, dietro si muove. Come nutro impazzisce. Infatti se l'ho chiuso tutto qua, tu lo chiudi tutto, ovvero. Ora, 1, 2, 3, prova. È attaccato, a due vatti è attaccato, sa, Gianni. Adesso l'ho chiuso tutto, dai. Tutto quanto l'ho chiuso, vediamo un pochettino. Sì, tutto chiuso e c'è la cosa attaccata. Sì, adesso mi l'ho attaccato appena qua, se ne ha picco vivo. Visto quanto sale questa cosa? Al contrario funziona, lo sa. Ma al contrario. Io lo vedo dallo strumento che come parlo sale. Anch'io qua. Lo vedo anch'io il segnale qua che sale. E come che sale? Sì, ma Gigi, sono i picchi di modulazione che lo fa salire. Quell'apparato lì è tipo come tipo questo, è tipo il Galas. E due fatti, due fatti e mezzo, adesso tu portalo come da prima, guarda c'è una radio, tu ti devi, se lo metti a ascoltare, devi vedere la differenza che c'è da quando tu lo metti a 10 watt che ti abbassa, invece aumentare ti abbassa. Tu c'hai il segnalone con il lineare attaccato con la radio spettacolare Gianni. Allora lo lascio così, dai. Lo lascio alla terza lineetta, Ora? No, andavamo prima. Come l'avevi fatto i fatti? Com'era prima? Così forse, era quello toccato, non so, guarda a vedere, così è. Ma tu non c'hai un coso per controllare quanti fatti c'hai di solamente di baracchino, col coso spento? Sì che ce l'ho, che c'è. È sempre attaccato e non smetto fatti, naturalmente. Così dovrebbe essere la seconda potenza, guarda, la seconda potenza del baracchino. Aspetta un attimo, lascia la seconda foto. Tu spegni il linearetto e guardami, di baracchino solo qua e mi dici c'ho l'importante bianca, muta, c'ho 2 watt e 2 watt e mezzo. Tu portalo a 2 watt, il massimo 2 watt e mezzo di portante bianca. Non modulate, non picchi, portante bianca, portala 2 watt e mezzo. Ecco, 2 watt e mezzo. Parla un attimino. Ora 1, 2, 3, guarda. Oh, Sandro, senti che radio che gli fa. Senti la radio a 2 watt e mezzo che gli fa. Segnale non c'è, però i picchi come saltano. Sì, ma è poc'anzi. Poc'anzi il testo glielo ho letto. Sì, così guarda, a me mi sta arrivando Santiago 7 con picchi, con dei bei picchi positivi, a 9,5 quasi. Lasciala così già. Prima era staccato, guarda adesso, 1, 2, 3. Cos'è Rosemary? E Rosemary con lineare in quinta marcia. Seguimi con le situazioni. Tu fai stazionare con lineare in quinta marcia e poi provi a modulare. Grazie. Staccato, come si chiama? Quinta marcia, giusto? Va 4 e mezzo c'hai adesso? Sì, adesso sì. Sei attaccato in quinta marcia, giusto? No, non ho attaccato niente ancora. Avanzato. Lascia attaccare. Ora? Valentino, che tu non eri con un 4 e mezzo prima, che era troppo alto il segnale. Occhio, controlla che non eri con un 4 e mezzo, che non bruci qualcosa, Gianni. Mi sembra che non era, il segnale non era un segnale da un 4 e mezzo, eri troppo alto come segnale. Quando? Adesso? Adesso, sì, a baracchino solo, sì. Allora, così è spento tutto quanto. Così sono col baracchino solo, ero un 4 e mezzo. Oh, può essere, cazzo, poco fa descendere. Allora è contrario, funziona. Già, Sandro, come? Che abbiamo intanto di segnare così, come che si spiega? Sta andando al contrario con la fare lì. Così non parte a mezzo, guarda. 1, 2, 3. Adesso? No, ma io lo vedo dagli strumenti, come in contrario. Dallo strumento io lo vedo che sale. C'è qualcosa che non va lì. Spiegami perché, sa. Se io parlo solo con l'apparato mi sale 1 watt e mezzo. Se io parlo con le cose qua mi segna 10 watt, che sarebbero, vabbè, sarebbero 100, perché c'è la scala a 1 kW. Allora aspetta un attimino. Allora, se ne sarà accorto anche Gigi. Allora, c'è stato un passaggio dove tu mi sei arrivato intorno ai 7 di Santiago, poi c'avevi dei picchi positivi dove andava a spingere a 9,5. Adesso questo non è più successo. Capito già, Sandro, che da questi 7 lui è salito con Santiago di Portante Bianca, spento, quasi a 9 da me, è a 9, Santiago non offre, hai capito, con 1 watt e mezzo, prima era con 2 watt e mezzo ed era 7, quasi 7 di Santiago, adesso con 1 watt e mezzo è a 9. E appunto che è quello che vi stavo dicendo, che c'è qualcosa che non va. Guarda adesso quanto ti sto salendo, 1, 2, 3, l'ho alzata appena. Allora adesso sei 7 con leggeri picchi positivi quasi a 9. Guarda mo. Adesso sei salito a 9 con leggeri picchi positivi, però la radio sta incominciando a comprimere. Sto giù a abbassarsi. Dopo riprendete, dai. Se no, però non mi sembra qualcosa che non va. Fattura la radio. Perché quell'apparato lì è tipo quel gas che ho io, Massimiliano, già l'hai visto. Quello lì ha talmente di quei picchi positivi, modulazione, che spinge, che è una cosa tremenda. E quindi cosa succede? Che quando tu li vai ad attaccare a una scarpetta, devi andare proprio a minimo, perché poi sono la modulazione che spinge. È positivo, è quello che sto dicendo. Allora, in poche parole, se lui mette già in quinta marcia e supera già i 5 watt, sta uscendo già a saturo. Esatto, perché superi quello che deve portare proprio a zero, e poi c'ha il tasto del topo gamma, che comprime ancora di più. Infatti, gli ho detto, prova l'S9, lui c'ha anche l'S9 80, può darsi pure che quelli li ha detto lì, con quella radio che sta usando non si addice molto, può darsi pure che con l'S9 esca meglio, capito? Tante cose ci sono da valutare, dai. È positivo, va. Avanti, Vulca. Positivo, ma poi no, hai visto a cosa, al contrario, Tonino ha attaccato, ha provato, ma la cosa era che, ma già ne invece abbassare, quando abbassava di batti aumentava di segnale, non ho capito, quello è un segnalone che ci avesse cosa attaccato quasi, con 20 watt così era un segnale che era 9, più di 9, l'importante è bianca, e prima non era così, quello è che mi è arrivato che saliva a quasi oltre 9 a me, l'importante è bianca addirittura, e con vatte e mezzo, c'era qualcosa di che ha toccato, forse ha girato qualcosa che non era messo bene, che era sbagliato qualcosa sicuramente. Ok. Infatti il passaggio che ha fatto ha fatto Tonino, adesso si è visto chiaramente che era il passaggio proprio l'ha attaccato. Ascolta, lo sai cos'è? Che la gente è convinta, no? Che quando tu ti compri il lineare devi usare la radio con i watt, con 10 watt per avere più watt per il lineare. Si sa tranquillamente che meno watt le dai alla radio e il lineare più lavora bene, capito? E invece la gente è convinta che diandole 10 watt, no? Ti toglie fuori il lineare tutti i watt suoi, però la radio è bruttissima. Allora, io lo stavo ascoltando, Gianni, in quinta marcia, dopo che ha superato i 5 watt, la radio era già tutta compressa. Sì, mai così. Quando usi una scarpetta, diciamo, i watt devono essere minimi. Io mi ricordo, non so se si ricorda Gigino, mi sembra che c'eri anche tu, Massimo, che io stavo provando a Giorgetto, qua, e gli stavo dando un ingresso, mi sembra, di 10 o 20 watt, che poi l'avevo riportato a 2 watt e andava benissimo. Te lo ricordi, Gigi? Te lo so, Sandro, io queste cose le so benissimo, perché io, allora, questa gente, tu hai detto, tipo Salvatore Miccione e Danubio e tutti quelli, io ci ho parlato, li conosco qualcuno di persona, e lo so come funziona, ha detto, ovvero sia, questi apparati che stanno facendo, gli ultimi, e stanno eliminando addirittura i watt esternamente, li stanno eliminando, tu c'hai il pomello, te li stanno staccando da dentro, te stanno già regolando 2,5 watt, massimo 3, già dall'interno, hai capito, dall'interno, prima invece tutti mettevano a girare questi, no, le stanno eliminando, perché la radio, cosa dice Carmelo Maciste? Carmelo Maciste dice così, dice, tu con una radio come con un magno, l'S9, con un magno, o con un 8001, con 2 watt a distanza di 20 km, tu sembra che ci abbia un lineare attaccato. Tu lo senti di radio, il segnale non le vedi, ma la radio è fortissima, lo senti di radio. E queste cose io le ho già, in anni le ho già provate, abbiamo fatto le prove, c'era Piero Mecchie, che Massimiliano già l'ha sentito tante volte, e qualche un altro, stavamo facendo le prove in propagazione, un'estate, eravamo in camion lì a Marrupio. Allora, loro stavano provando con forte potenza, mandandoli con 600-700 watt. Io ho provato con 250 watt, con 2 watt di baracchino, e hanno confermato, loro presenti, hanno confermato che la radio, la mia, pompando in quel momento con 250 watt, con 2 watt di baracchino, sempre di quelli modificati, ero superiore a loro che ne stavano mandando 600-700 in quel momento, stavamo facendo le prove in 3, abbiamo fatto le prove in 3, la mia era più su in propagazione, era molto più forte, superiore a quella che arrivava con 700 watt. Sì. Ecco, con ingresso superiore, tu e vatti, tu io ho l'8001, Sandro, che tu a volte me ne prendi da Florina, da cosa, io con 2,5 watt sono, a volte, ho 2,5 watt senza attaccare noi, ho 2,5 watt, ecco, e mi sento da lontano a volte, e ho 2,5 watt, hai capito? Questi 2,5 watt ti danno una radio, segnale te ne danno poco, però di radio, gli passi sopra, mi ascolti di radio, non mi vedi di segnale, ma in lontananza mi ascolti di radio, hai capito? Allora, questo è il magno, quello che c'hai tu, sono fatti così, viaggiano con 2,5 watt, tu glielo alzi i watt, ti alza, sai cosa ti alza? Il segnale, ma non ti alza la radio rimane, anzi più aumenti i watt, più ti abbassa la radio, e tu ti aumenta il segnale. Esatto. esatto. Allora guarda, io adesso al momento sto andando con 5 watt. Sto andando con 5 watt e il macchigain è a metà. Con picchi di modulazione 25-30. Guarda, adesso incomincio a escludere. Comincio a escludere qualcosa. 1 e 2. Vedi un po', ha cambiato. Fatto adesso, hai escluso che cosa? Allora, escluso il top gamma, l'ho escluso e adesso sto andando normale. Attaccalo nuovamente. Ok, adesso è attaccato. Cazzo è meglio, vero Massimiliano? C'è una differenza oggi. Meglio attaccato, vero? Va bene anche attaccato, però attaccato si sente, maledizione, di più. Invece tu avrai 5 watt, mi puoi fare sempre parlando così a passarlo a 2 watt? Così per curiosità, Sandro. Ok, non posso abbassare più a zero, non riesco più a abbassarlo perché ho questo problema in antenna. Gigi. Non fare come Gianni, do più ruffore tu. Cos'è? Più abbassi i fatti e più problemi c'è. Non ho capito, più risolvi più bene va, ma non ho capito ancora, Sandro, fammi capire. Forse sono io che non ho capito bene la spiegami un pochino, perché non l'ho capito, e questo non l'ho capito. Io ho detto di abbassare i fatti, non di sollevarli. Esatto, di abbassare i watt, io adesso sono proprio a minima potenza, siccome ho questo problema in antenna oggi, avendo questo problema in antenna, lui ha una protezione dentro che più di 5 watt non me lo fa abbassare, questo comunque vado bene adesso così. Come watt parte da 0 arriva a 15 watt, ok? Poi sono i picchi di modulazione che lo fa andare, però adesso attualmente, avendo questo problema in antenna, cosa succede? Che più di 5 watt non me lo fa passare. Comunque è forte, va bene. Aspetta che è entrato Gianni, vieni avanti. Adesso l'ho regolato come la prima, bene, ma va bene già, prova nuovamente, ma va bene. Kappa, la radio è buona, volevo fare alcune prove per vedere come andava, ma se un magnum, già il magnum è potente, probabilmente è quello, il 980 schicchia. Ma questo cos'è adesso? Questo è il Galaxy. E questo è più forte adesso, sta andando più del magnum, lo sai. Perché si adatta di più probabilmente. Non lo so, ma anche il magno si adatta, bisogna adattarlo bene. Tu poco fa tu hai sbagliato qualcosa toccando, te lo dico io, perché è possibile, Gianni, che prima si è sceso a 7, dopo di metto un fatto e mezzo ce ne hanno oltre il 9, c'era qualcosa di sbagliato, non lo so Gianni, ma c'era qualcosa di, è impossibile questa cosa. Aspetta, non ho sbagliato nulla, era sempre la stessa regolazione, come facevo a sbagliare? Gigi, lo sai perché il Galas lo tiene meglio? Perché il Galas non ha tutti quei picchi di modulazione come il Magnum, e quindi lo tiene bene. Sì, ma vedi, guarda quando modula adesso Gianni, guarda i picchi anche qua sul Galas, modula già, guarda i picchi, controlla i picchi. 1, 2, 3, prova. Sì, lo porta benissimo, anzi, meglio del Magnum. Porta meglio del magno, ma i picchi ci sono ugualmente, anche di più del magno ci sono, se hai notato. Sì, esatto, più del magno, ma il magno non vuole regolato, perché è talmente c'ha tutti quei colpi di modulazione, picchi di modulazione, che va, diciamo, a comprimere e sfasa tutto. Non lo so, comunque io vedo quando lo modifica il magno, il coso glielo, il top gun glielo elimina proprio a me, per non sbagliare attaccarlo, te lo elimina completamente. Adesso per dire sono a 5 watt, io adesso elimino il top gamma. Ok, adesso io ho eliminato il top gamma e sono normalissimo. Ma cambia? sì, ma la radio è bellissima lo stesso, cioè, ti dà un po' di amplificazione in più quando la attacchi quella, però questo va bene, la radio è buona lo stesso, mi questa, Sandro, va bene ugualmente, il segnale è sempre quello comunque, non è che ti cambia, Sì, capito, adesso per dire c'ho la macchinina a metà 5, ok, adesso è tutto aperto, ma non penso che cambi niente, siamo lì, quando io inserisco il topogramma, ma ti aumenta in effetti, ti fa rullare di più la modulazione, non in radio. La modulazione ti fa rullare di più, te l'amplifica un po' di più, capito? Esatto, ti fa rullare di più la modulazione. E lì stesso con lo Magnum Gianni, siccome il Magnum ha talmente tante di quei picchi di modulazione, che devi provare a farlo, diciamo, proprio tararlo, giusto, lavorare magari anche sul making in, per ridurre, diciamo, a parte il watt, ma devi ridurre anche i picchi di modulazione. Già sta di uscita, ma c'è il gas che va bene. Non c'è problema, già va bene anche così, immagino, non c'è problema. No, dovrei aprirlo, passarlo da dentro, eccetera, ma non lo voglio toccare. Perché il Michigan dentro, cioè, da dentro si regola già, non ce l'ha fuori il perché il momento. Sì, il Michigan ce l'ha fuori, ma per il watt, forse proverei a aprirlo da dentro perché c'ha dei picchi positivi, cioè, lo metti a 2 ti sale a 10, per il colpo, capito? E la regolazione minima ti dà lo stesso numero di watt. Aspetta, lo vuoi vedere, 2,5 e arriva a 18, i picchi sono 18 qua, con 2,5, sono 18 già, io sto uscendo con 2,5 e portante bianca adesso, questo qua è 2,5 e portante bianca adesso, come sono i picchi? Sono, vedi, se rulla, se alzo la voce, vedi come sbatte. Modulatore è quello, perché qua c'è quello, vedi? È un altro tipo di apparecchio per oggi, sono altri tipi di apparecchio, quello è già regolato dall'interno, che praticamente siamo regolati i watt dall'interno e quindi tu li puoi dare i watt che vuoi, capito? Capito, sta, sono 2,5 watt, no, tu strumento qua, 2,5 watt, però vedi come vedi come va. Guarda, stanno lì watt appena, come va? 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3. No, va come quello lì. Va bene, sai, io vado un attimino nel QTH piccolino che sto sempre trattenendo e andiamo un po' a liberare un po' di acque. Ok, non farlo mai, quello lì, perché la vescica non risente, si diraccia, e poi lo sfintere non riesce più a emanare. Ma grazie a Dio ancora già... ancora già, almeno quella funziona. Quando vado ne faccio anche abbondante io. Questo qui detto dai dottori, i corsi che ho fatto, non è che non bisogna mai trattenere. Sì, ma lo so Gianni, per quello sto dicendo, io come sento lo stimolo vado, anche quando sto viaggiando, come sento lo stimolo dove capita la prima piazzuola e il nappio, e marchio il terreno, faccio sempre faccio così, non la tengo mai, infatti adesso sento leggermente lo stimolo e vado, perché lì fa male, una volta che non avevo possibilità, non mi ricordo dove era un posto, ho trattenuto, sono stato, ma proprio che, poi quando sono andato a farla che stavo scoppiando proprio, mi ha fatto un male, un dolore, un bruciore, forse perché non lo so, ma male veramente. Non lo so. Allora, sono corsi che quando facevo servizio ambulanza c'erano dei dottori che facevano tutti i tipi di corsi, psichiatria, l'apparato digerente, tutte queste cose qua, che magari a noi ci potevano interessare o no, però siccome quando si è sanitario queste cose ti cominciano a interessare, allora era bello saperlo. succede, dai. Sono cose che per tempo io, sai cosa succede? Vabbè, tu vai adesso, vescica praticamente si abitua e si dilata, cercando di trattenere, e poi non fa il suo dovere più, non senti più lo stimolo, capito? E ne subisce anche moltissimo i reni. Va bene, signori, un po' di cuore di chi sta da parte mia, dai. Ciao Sassio, ciao. Comunque Rix, dai. Rix è andato là, ma si vede. Che anni, doppio RU. Ui. Anche sul 45 andate voi, proprio. E tu dove sei? Sul 45. Allora, cose di Zendi. Che bello. E allora che cosa? Erano qua, non c'era nessuno sul 10, io ho girato. Io vi becco sempre. Fai bene, Giuseppe. Cappa, chi c'era Gigino? Ehi, avanti Gigino. No, Gigino è andato in bagno un attimino. Chi è rimasto? Chi è rimasto? Massimiliano Bulldozer. Per fare. Cappa, come si sente in 45 già la frequenza? Com'è? Più basso o più alta? Si sente meglio, dai. Più forte arrivi. Beh, un'altra cosa. Arrivi più forte in radio. Ah, ma mi dà compressione. Poco fa abbiamo parlato con l'Inghilterra. Avevo. Cappa. Hai fatto in dietro? Eh? Hai fatto qualche collegamento? Sì, un camionista che è italiano che era in Inghilterra. Praticamente ci senti fatti a me, a Gigi, a Massimiliano. Anche a me. E anche a Falcato. HK. Che a me ha sentito solo, io mi l'ho sognato, che l'ho dormito. Sì, Corietto, buonasera. Ciao a tutti, sto ascoltando. Quella sedia ho già. Paga, e vai pure, a me non ti imbriagami. No, non bevo, lo sai che io non bevo. A me appunto perciò a base di clorini, pizza e aranciata, quella roba lì, io non bevo, lo sai che non bevo. Ma Giuseppe, ma ci scendiamo da? Dove? A cosa? Ma come si chiama? Non mi viene mai quel nome, io fa almeno. Quando? Stasera? Sì. E a che ora? Che so, sono le 6:20. Cosa c'è? Così, facciamo il 10. Arrivo, sì. Così dormito già. Lo sì. se non lo sentiamo, si chiamo. Ciao Agaba. Va bene, Diana, buon corrente, va, questa è in greca, la sua canale, dai, salutami da Vinci. Oh, ci sentiamo, là, io chiudo per un secondino, là. Spero che Malachino sa che io tanto Ghilda si piglia l'umanico in mano e fa vita, là. Là, ci aggiorniamo più tardi noi.